con Enrico Maisto, regista del documentario La Convocazione. Enrico, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, buongiorno, grazie. Allora, mi hanno segnalato il tuo lavoro perché ha ricevuto un premio al Festival dei Popoli di Firenze. Ce ne parli un po', Enrico? Sì, volentieri. Il film racconta della giornata che vivono questi 60 cittadini che vengono estratti a sorte da un sistema informatico e catapultati nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Milano, in attesa di sapere chi di loro verrà scelto dai giudici per far parte della giuria che poi affronterà alcuni processi. E la Corte d'Assise si occupa dei reati più gravi previsti dal codice penale italiano, quindi parliamo di reati di terrorismo, di mafia, omicidi, quindi diciamo la posta in gioco per queste persone che si ritrovano lì è molto alta. E quindi insomma il film esplora un po' quelli che sono i loro sentimenti durante questa attesa. E, diciamo, un po' il sì, sì, ecco, e a questo punto la curiosità è anche come funziona questo meccanismo che non credo tutti conoscano. Sì, in realtà è un meccanismo abbastanza comune che potenzialmente riguarda tutti i cittadini tra i 35 e i 65 anni, che siano ovviamente incensurati e che abbiano un diploma di scuola media. Ovviamente vengono estratti a sorte, convocati in tribunale e poi i giudici valuteranno secondo l'ordine di sorteggio con cui sono stati convocati chi dovranno essere i membri effettivi della giuria, chiamiamola così anche se in Italia insomma siamo giudici popolari, il termine esatto è giudici popolari, sì. Si parla di giuria. Senti, come ti è venuta in mente l'idea di filmare una vicenda di questo tipo? Beh, in realtà io frequento i tribunali da quando sono bambino perché i miei genitori sono entrambi magistrati, adesso sono in pensione, però insomma hanno fatto questo mestiere per 40 anni e quindi io sono diciamo sempre stato molto attratto dalla figura del giudice e da tutto quello che accade intorno al mondo della giustizia, diciamo che, insomma, questa selezione, questa procedura, questa cerimonia sembrava insomma, che potesse ben veicolare tutti quelli che erano stati i miei interrogativi, le riflessioni accumulate in questi anni in cui ho osservato il lavoro di quindi nasce da qui. Sì. Senti, come hai proceduto poi nelle riprese? Che cosa è uscito fuori? Allora, in realtà abbiamo lavorato in modo molto empirico con una squadra numerosissima di persone perché la situazione presentava dal punto di vista logistico tutta una serie di difficoltà tecniche a partire dal suono, dalla ripresa del suono, perché si tratta di insomma, l'acustica nell'aula del tribunale è pessima, ci sono tante persone che parlano contemporaneamente, c'è molto eco, quindi abbiamo dovuto studiare una maniera di uscire, insomma, a portare a casa un materiale che potesse avere una qualità cinematografica e quindi insomma, devo ringraziare tantissimo la squadra di persone, di professionisti che hanno messo il loro talento al servizio di questo progetto e alla fine è diventato un documentario di osservazione. Quando quello lì non c'è interazione, non ci sono interviste, noi semplicemente siamo testimoni di quello che accade, testimoni silenziosi di quello che accade a queste persone quando entrano dentro l'aula e li osserviamo, li ascoltiamo, tutto quello che nasce nel film viene fuori dai loro discorsi, da loro interazione dentro l'aula. Questo un po' è l'impianto. Sì. C'è qualcosa che ti ha sorpreso? Ma sì, devo dire di sì, nel senso che io sono entrato lì dentro forse con un pregiudizio negativo rispetto alla macchina nel suo insieme, che vedevo un po' come irrazionale, come anacronistica, come qualcosa che potesse schiacciare. l'individuo, avevo un po' questa immagine kafkiana, se vuoi, della giustizia, di questa burocrazia che fagocitava, no, queste persone impreparate ad affrontare quello per cui venivano chiamate in tribunale. E però in effetti la sorpresa è stata quella di scoprire che c'era invece un effetto positivo poi su queste persone, perché diventava per loro un'occasione di crescita anche, no, dal punto di vista umano. Come esperienza poteva essere formativa il fatto di metterli alla prova, di portarli a riflettere su che cosa può significare assumersi una responsabilità di quel tipo, come quella di giudicare la vita di un'altra persona, perché le pene che sono in ballo sono pene molto alte. Si parla anche dell'ergastolo, si parla di insomma quantitativi di pena piuttosto ingenti, per cui ecco, la responsabilità è grande, e mettere delle persone fronte alla necessità di prendere una posizione rispetto a questo, di immaginarsi che cosa può voler dire essere giudice, questo sia alla fine per loro qualcosa che li cambia, che li arricchisce, insomma c'è questa sorta di metamorfosi, ecco, che non, probabilmente non mi aspettavo di trovare. Un riconoscimento all'interno del Festival dei Popoli, e ora che ne sarà del tuo lavoro? Allora, il film è stato presentato in concorso anche a Lipa, ad Amsterdam, concorso di lungometraggi, e poi al Filmmaker Festival di Milano, e dalla metà di gennaio in poi uscirà con Arch Film, in Italia, in alcuni capoluoghi italiani, e poi insomma vedremo come va anche con Fonte della Rai, che è coproduttrice del film, quindi insomma probabilmente ci sarà un passaggio televisivo, anche se non ho idea di come, quando. Senti, ci lasci a questo proposito dei riferimenti internet, se c'è un sito internet, una pagina Facebook? C'è una pagina Facebook, La Convocazione, no, il sito non c'è, però insomma sulla pagina Facebook benissimo, tutti gli aggiornamenti possibili saranno rintracciabili, no, insomma anche sul sito di Arch Film e Lingshot Film, che cura le vendite internazionali, insomma, benissimo, la parte distributiva. Enrico, allora un abbraccio, un in bocca al lupo e alla prossima. Grazie il lupo, grazie. Ciao. Grazie a voi, ciao, buona giornata. Anche a te. Enrico Maisto, regista del documentario La Convocazione.